oggi, eh? Ehi, Jacopo, vabbè. Va bene, c'è un bel forte. Ma un mio, sto usando 430 numero 2, non numero 1, capisci a me. Numero 2 con 60, funziona benissimo. Ogni tanto devo provare anche questo, se no. Certo. Ehi, ha attaccato quello strumento, quello grande, è tutto a posto, tutto funziona bene. Ascolta, l'hai attaccato quello a fare là? No. Eccolo, l'ho visto, vedendo l'annuncio. Ehi, qua c'è la pupa anche oggi? No, è andata via un'oretta fa, chiappa. Sì, c'è mia figlia tra la ginata a vola al sole, alla sdraia, è rientrata poco fa al volo, stanca morta, mi traio fuori papà, è sdraiato in volo, io qui ti faccio. C'è un po' di caldo fuori, dentro c'è un fresco bellissimo. Sembriamo l'estate oggi, è molto bello. E sarà quella settimana oggi di giorno. Settimana all'acqua. È regolato bene il Michelin, va bene come per amplificazione. Ehi, lasciala così, che va benissimo. Ma a me anche se lo metti non mi cambia niente, non me ne dà fastidio. No, devo fare un Gabon Show. Già va bene così questa. Questa è Virginella, non è toccata. C'è il sigillo, quindi non mi permette di toccare niente. Questa è quella che è in vendita e si vende come la vetrina, capite? Invece l'altra che ho, la numero 1, è quella è leggermente un po' più aperta di Michigan, però questa va bene, dai. Ehi, va benissimo. Ma solo l'annuncio. Vediamo un po' col microfono tutto maletta cosa succede con Mikey Gay a 5 a 4 capo. Se ci dovuti a fruci, tutto a fruci se ci do, ma altra roba accesa c'è. No. Non so come si regola il coso per farlo ascolto. Televisione c'è accesa. Ma perché fischiando adesso stato no? No, c'è. Stavi fischiando, niente di che, però stavi fischiando. Vedi, fischia quando metto il Mikey Gay. Aspetta che mi allontano. Vedi, se mi allontano non lo fa. Oh, attenzione così Mikey Gay, ce l'abbiamo otto. Lascialo com'era. Sì, perché già così mi devo allontanare ed è sì. Non se no devo passare a Mike. Allora, Mike a 3, vediamo un po'. Ora a 7, perché c'è un microfono a 3. A 4, sembra non stia fischiando, però ci siamo. Sì, siamo lì per. Ah, ok, lo lascio a 3. A 3, K. Lasciamo stare così, già va bene, non c'è un problema. Ultimo per la truppa. Vediamo, sì, ho messo quel prezzo là, l'ho messo. Ah, aspetta, ci devo mettere anche lo strumento, me ne ho dimenticato. Adesso faccio la fonda. Ma questo ce ne ho visto un bel, capito? Però, tentar non nuoce. Sì, ma infatti. Ho lasciato qui e sto abbasso la potenza. Siamo a 20 watt e sta radio già va bene. Ehi, KK, ottimo per la gruppa. Ehi, ha messo K. Qui vogliono tutto il regalo, Ehi, ne sono qua e stavo mettendo a posto. Mentre questo microfono qua ce lo metto nell'altro baracchino, si tremoleggia tutto, va a l'altro è più quello. Così esci bene, problemi non c'è. Alla grande ci, non ho nessun problema, va bene. Aspetta, che lo collego l'altro, ti collego questo microfono. Tutto sarà fatto, esci, aspetta. Ehi, sta innescando però. Stava innescando l'altro. Vabbè, guarda com'è questo è piccolino con questo microfono. Esce bene, ma il Galaxy è nettamente superiore. Però, allora, aspetta, perché c'ho il MicGay a zero. Vediamo un po'. Guarda, vedere. Com'è? È troppo forte, però come modulazione, come tutto, il Galaxy è nettamente superiore, ti ho detto. Vabbè, è giusto che lo lanci. Galaxy è Galaxy, già modula bene così, immaginati con la scheda accolta. Molto bella. Anche questo già lo vedo parlando. Porca miseria, ma stai scherzando? No, gli va bene, va benissimo, non bene. Però ti ripeto, io preferisco il Galaxy. Come modulazione, come tutto, capito? Di cuffie senza questo cazzo di microfono attaccato, ma mai voi ci vedono se agattano i più cuffie, sono tutti con questo microfono attaccato. Non ho capito, ma cuffie grandi o piccole? Piccole, grandi, se sono piccole è meglio, ma sì, quelle grandi sono la rottura di balle, ma quelle grandi sono tutti col microfono attaccato. Cosa c'è, Fibbo? Non gli compresi? Ce n'è, anche senza microfono attaccato. Sì, ma dove? I cinesi non hanno i miei, sono tutti con il microfono attaccato. Su Amazon, guarda, ci sono. Dopo guarda a vedere. Ce n'è un paio grandi, ma c'hanno questo microfono attaccato. Quelle piccoline ci hanno rotto, le avevo buttate via. Sono andato a comprarmene 9, tutti con questo microfono attaccato. Sia che vado da Media World, per Danieda, domani, tanto sono in giro domani mattina, che non so che cosa fare, portare la macchina da Ruzzeddu, via le porto a Torrege, poi passerà mio genero a prendermi, dobbiamo fare un po' di commissioni. Non so se ne ha, no, cosa non ne ha, Bricome non ne ha. No, vado da Media World domani mattina. Città marcata, ne apro un caffè, me la prendo lì, ma non sono sicuro che sono buoni, prendo quello della Sony. Certo. Tutte grandi soffrate, lo fumo, gente andi giù da una parte, dall'altra no, non viene bene a registrare le modulazioni. Non so perché allora me la fai in un baracchino che si sente una cuffia solo. Pensiamo che era il jack, però ho cambiato, che ho i connettori da grande a piccola a grande, i connettori piccoli, capito? Ho cambiato tutti i connettori che ho, sempre la stessa storia, allora si è bruciata sicuramente l'autoparlante. No, io uso quello del telefonino, però nel telefonino funzionano bene, certi apparati funzionano bene, in un apparato solo mi fa così, mi ne funziona una sola, eppure lo spinoco piccolo suo, direttamente senza nessun, capito, nessun altro adattatore. Infatti agitava il buon gusto, provo l'auricolare a vedere. L'auricolare, se sento bene con l'auricolare, non è un pareggio, aspetta. Ehi, non si sente una sola. Vediamo, una. E questa no. Allora è questo pezzo di coso. Allora è questo allora, aspetta. Fanculo. Non ha mai. Allora è questo. E questo affare qua che non funziona. Guarda che aprire tu. Allora, vediamo un po'. Sempre la gatta, casino, vabbè, andiamo, dove andiamo? Tutto a posto, tutto a posto, tutto in ordine, capo. Tutto in ordine, andiamo, dove andiamo? Ma va bene. Hai capito, qua, tu se vuoi un regalo, Giulio, tutto a regalo, questo è il mercatino della beneficenza. Ehi, se non mi hanno mangiato me le dati. Vuole la paga come dico io, se no ne ho un bel su internet di tutti i duri, faccio pigliare in chivi. Infatti cazzo, che da 100 euro la vogliono pagare 10 euro, però aiuto. No, ma col Galaxy si rivale con i soldi, io no, anche a me non mi interessa, io non ci guadagno niente, però se consideri il fatto che, come ho detto ieri a Gianni, io personalmente, ma tanti altri come me, abbiamo comprato, cioè all'anno 40 a 400 euro, ma di cazzo qua stiamo parlando, però è un signor a radio veramente, ma un signor a radio, in tutto e per tutto, veramente per me rimane sempre il miglior baracchino in assoluto per la 27, in più c'hai un eco colte sotto il culo con cazzo 30 watt P&P, con la possibilità di aumentare ancora di più la potenza, di cui stiamo parlando. Io ti ripeto, non sono interessato, lo sai perché? Perché intanto non ne uso, non ci vado nel 45, non me ne frega niente, se no me l'avrei presa al volo, ma al volo barome, capito? Mi ferma, mi penalizza un po' il fatto che sia radioamatore, non posso andare nei canali alti a fare casino, se no guai, che me lo divido dopo con chi sa radio. Ma con lineare tratti un fissa radio, è completa, molto bella, 300 euro ci vale tutto, già stanno dando i Galaxy a 250 senza niente, a me devo dare 50 euro in più, grazie a io. Ce n'è 300, 350, normali, 380, non c'è qui, ma di che parliamo? E io per quelli sono esagerati. Un Galaxy normale è bello, si paga 250 euro, anche 200, ok, come ho fatto io, mi era bello, ho pagato 200 euro e sono stato contento, va bene, ok, però normale, se poi ci mettiamo 120 euro di scheda colte, cazzo mi devo dare 300 euro, il lavoro chi l'ha fatto non deve essere pagato, 300 euro è più che un prezzo ottimo, perlomeno io la penso così, poi sono solidale con chi non è d'accordo, per carità, ognuno guarda la sua tasca, però quella radio lì per me 300 euro ci va, non so, ripeto, a me non interessa, io sto bene così, una giuda vendi io, una giuda venduta, ho rotto il camice dai piedi, se mi gira le balle mi vendo anche il DAC, figurati che è buttato nel magazzino del Calvario, certo c'ho 2, 4, 30, 140, è tutta la linea completa, c'ho il 757 GX2 Cat System, che è un bellissimo HF come 140, esteticamente però è molto più bello, certo c'ho la linea 920 che usa già ancora, giù di comparare, ma bisogna vendere e basta. Sì, ma considerando che hai due apparati in uno, cioè con le regolazioni che puoi fare, puoi stare in locale tranquillo parlando e senza disturbare anche chi è più vicino con la voce eccetera. Poi quando devi fare di ex aumenti tutto, sia eco che watt, te ne vai e fai quello che devi fare, e se già vuoi di più, invece c'è un baracchino da uno all'altro, vai un baracchino, un fratto, gira la manopolina e si allenti. Vabbè, non apprezzano, secondo me. Non apprezzano, è un periodo anche molto brutto, attenzione, periodo molto brutto, ci stanno uccidendo tra luce, gas, balle e polvere, ci stanno uccidendo, quindi ognuno guarda la sua tasca, però io non parlo di quello, per carità, non è che devo fare i conti in tasca a nessuno, io parlo, esprimo il mio parere per quanto conosca le radio nel mio piccolo. Se tu vendi un Saturnecco a 250 euro normale, come l'ha pagato Massimiliano, come l'hanno pagato in tanti, io ripeto l'ho pagato 200 euro, ma c'è gente che l'ha pagato anche 250, normale, cazzo, non mi rivolgo 50 euro in più per un Eco Colt, è bellissima quella radio, veramente molto bella, è completa, capito? Chiudi l'Eco, gli attacchi un microfono normale e ti fai le tue chiacchiere normali, poi vuoi andare a fare combattimenti, c'hai tutto. Tiri sulla leva e ci andiamo, è molto bella veramente, poi è nuova, cazzo. Minchia, chi ce l'aveva l'aveva operata bene con la radio, eh? Sì, sì, sì, vero, quello è vero. La gnagna, gli piace la gente, solo la gnagna. Cosa vuoi ti dica? Le mie radio le conosci, non ti ho nascosto niente, poi ne hai una che ti ho fatto avere io, hai già visto che condizioni è, che la vetrina anche quella, perciò non si scherza, le radio se le tieni bene mantengono il suo valore, se te le mangi è chiaro che non te le compri già nessuno, io quando vendo vendo roba bella, nuova, ordinata, funzionante al 100%, la giubbina ho tutta la sardinia io di HF che mai nessuno mi ha detto basta, quindi è così, però i preti vedi stanno, a volte salgono, a volte scendono, a volte salgono, a volte scendono, si sta tenendo prezzo, è molto il 4,30, è sceso molto il 4,40, il 140 siamo sempre intorno alle 2,80, 300, 320, 350, dipende da chi lo vende, dipende da com'è, dipende sempre l'estetica, il funzionamento, la radio, capito? Cioè se io ti do quella mia, tu l'hai vista, c'è cioè, la vetrina, come fai a darla, cioè 250 euro alla radio del genere, ma buffonendici, ma manco ci sto pensando, rimane lì e si marcisce lì, non mi dice venerina, assolutamente. È una questione di principio anche, giustamente, allora un conto è fare lo sconto all'amico, ma sai che l'amico è in difficoltà, sai che magari è un lavoro precario, ma se sai che quello non ha problemi di soldi, che perché non devi pagare? Perché devi andare a cercare di pagarla il poco possibile, non il meno, ma il poco possibile, poi dall'amico, in pratica non voglio dire la parola, ma vi resi buone di non donda, cioè è quello, capito? Bello, io sono andato incontro, già l'ha detto, lo può dire, non è un problema, capito? Perché gli ho dato 300 euro, ma gli ho dato anche il microfono da tavolo che lui usa, capito? Quindi non c'è problema, però altri no. Lascio un attimo di cose, intanto mi saldo uno spinoffo, se volete così, se volete dare qualcuno. Vabbè. A voi. Fuori buttato al sole, la mano. Così impari. Guarda, scoppiatoci. Ti sta scoppiando la testa. Cazzo, si sente la lingua da qua. Si lo vede, è lì gavura, corcati sotto, corcati lì a nonno, sotto la scrivania di nonno, vai, tutto, no ma si corca anch'io al fresco, probabilmente al fresco, mi abbassa, ci fa 5 minuti e ce le prende, sono bello, dai, già sono qua, non c'è problema, qua sono. Adesso vediamo. Accendo un po' le acchette, ecco qua, acchette, brumiti le acchette, ecco. 40 metri, vediamo se c'è qualcosa. E così è, c'entra a farlo. Andiamo, dove andiamo? E così è. Attenzione, 10, c'è qualcuno. Ho visto la portante. Beh, no, io ce l'ho 525, non c'è C'è Marco fuori che c'è una gara nazionale di tiro. Walter dovrebbe rientrare dopo domani, quindi è fuori anche lui. Gianfranco non lo sento per niente, ma se non ci siamo noi non va mai nessuno, già tutti l'abbiamo fatto le visio, Galghero, a tutte le parti, non fa vedere mai nessuno, e tra l'altro fa vedere la giù. Ma prima si sentiva Sandro, si sentivano un paio, Vanni, sicuramente è successo qualcosa come al solito. Immaginare. Sì, sicuramente se c'è qualcosa tra settimane non ci provvediamo a quell'altro, ma è proprio come una fuga. Io non appartengo a nessuno e quindi quando c'è gente parlo, quando non c'è nessuno sto zitto, ragazzi, non ce l'ho per ballo, bisogna di fare. E così io ho deciso di fare così già da un po' di anni, sia qua che lì da tre parti. Ma infatti me non me la fotti più da nessuno. Allora. Mi ha arrivato un messaggio, ci vedi? Allora, c'ho due messaggi WhatsApp, gli rompi scatole, aspetta. Andiamo a dare due, uno, fruscia da di qui. E chi è questo in 40 metri? Questa bella giornata che ho fatto oggi, ci ho pensato tutto il fatto, la mano si fa così, se non c'è un mal di schiena, ecco invece sfogliato le fuori, e pulisco tutta la parte del muro esterno, e basta, però la taglio così, è pulita. Ah, si faccio un po' di due rughe, non hai bisogno tagliarla. Cosa? Se tu ci metti due tartirughe, non c'è bisogno di tagliarla. Due tartarughe? Vabbè, ora ce ne andano in letargo, così che... Non ce n'è poche qua, mio vicino ne ha altre, ho curato grandi, mi... con il giardino sono che scavano, che te si mettono sotto. Allora, che faccio il mazzone se le mangia? No, non c'è il mazzone qua, no. L'unico mazzone sono io qua, gente, vai tu, vabbè, su WhatsApp. Se sei tu, cazzo, ti mando un... ti metto la portante col telefono. Mi alzo e vado a vedere. Gianni da poi si assenta. Sì. Io. Questo è il 430 numero 1. Lo faccio usando il 2. L'1 è più forte, no? Più aperta con la modulazione. Ma lui. Senta il mio coccomane. Lui. Cos'è? La 7135. Sì, c'ero poco fa. Ho detto questo è l'1, il 430, l'ho fatto usando il 2. Secondo me è più spinta questa dell'1, no? Devi farla quasi in contemporanea, perché se c'è poca differenza. Perché questo è leggermente, dai decimi, vedo che spinge un po' di più. Mentre quello là no. 9. 7135, vediamo, 7135, c'ero poco fa, però a eccezione mia che è in DSP, cioè, di cosa stiamo vedendo. DSP. Bella. Metti il DSP. Aspetta, segnale basso però, aspetta. Arrivando senza preamplificatore d'antenna, mi sta arrivando 9:10, col amplificatore l'antenna, 9, quasi 9:30, e tanto sono di polo, no, banda io. E anche io sono con quello. Con quello, non so se l'hai visto, quello orizzontale, con quello che abbiamo fatto la foto tempo fa per terra, quello lì ho messo su, aspetta. Sì, venerdì, lunedì. Ma no, fa male. faccio l'intero programma, ma chiamerò il meccanico, perché quello non è né batteria né niente, c'è qualche problema di fondo lì. Sì, sì, entrato. Ma ha detto 3-4 giorni rimaneva fuori, quindi se è partito sabato, fai sabato, domenica, lunedì, o martedì o mercoledì rientra. Mica stanno breccando, mi è sembrato un turno. Avanti a tu. Avanti. Staffa, sono della bella piccola. Sì, massimo già ti ascolta. E adesso metto una grande, va. Andrà bene. E se vai a dire in macchina, Antonio, hai detto mangi in macchina, sì. Ma la macchina non colpisce in cuore. Io ho regalato una gran prima, nuova nuova. Ah, beh, beh. Ma non se la mette a casa sua. Ecco, volevo contestare un'antenna solo la roba, quella è quella. Aspetta, aspetta. Ora, c'è un compagno, smontata. Funzionava bene con i gran prima. Funzionano benissimo. E beh, bombola. Ma non c'è fondo, sembrava bene. Fai, fai. Luca. E beh, sento male, mi sentite? Sì, alla grande. No, ma con il microfono c'è tutto drudiendi. Non va bene, drudia. Sì, sta facendo scariche. La modulazione c'è, però c'è scariche. Ora, ora, va bene ora? C'hai alternata. È una merda. Hai un microfono? Cercavo questo, pensi. Sì, l'altra radio, ne l'hai portata la contagna? La radio c'è un deposito. Ma quella là, quella che ho detto io? Ehi. No, cosa vuoi dire? No, non mi piace la modulazione, tanto non so se c'è anche Luca, lui. No, è tutto drudiato, sì. Si sente da qua l'odore della fava. Vedi che c'è qualche problema di microfono. È drudiato con questo che mi l'ha dato. Sei tutto. Pare che ci mangiato un fagiolo. Cappa, Luca. E chi mi fa pipì? Aia, via. Lasci col cappa. Ma va. Lui non li tengo più. Ho fatto... Ho messo anche quella per cessare. Sì. Sta pensando ma non ben forte. Io, beh, è quello che ha l'apparato. Ma davvero, ma sei col 4-5? Allora... Vai, cazzo, tutti sei come... Cazzo, mi butti sempre, che buh, grazie a modulazione, c'hanno, però... Io me ne accorgo del segnale, grazie a 9.30. Vuol dire che ha deciso di dare tutto il suo benessere, non lo dica. No, no, sono 9.60 io. Guarda, c'ho la stamattina accendo, gli ho aumentato il power. E c'è un segnalone, non so ti dica, c'è gli occhiali, c'è un segnalone, se non è generoso, ho detto 4.30, ma dove va? La volta era per Fabrizio lo smette. L'altra volta era 9.15, 9.10, buona ricordo. Allora, ho acceso la luce, e sì, 9.25, quindi stai dando il massimo a quella radio. Col K6 arrivato massimo 9.18, 9.20, sì, 9.25. Allora, già va bene, se sta andando così va bene. Alla grande. Sento l'ore di amplificatore sul K, io. Ma come è? No, no. Non bel segnale. Bello pieno, 9.25, sì, modulato 9.25, sì. Vabbè. Bombolo, finito di trudia. Aspetta, devo salutare una persona. E io. Chevrolet, il 140 ce l'ho ancora, e a voi il compa. Bene, bene, bene, è venuta a prenderci il cane che ha lasciato qua. Qui sono le due? Sì, erano a Napoli, così, tre giorni. Gaffa, gaffa, gaffa, andrà bene. Non mi ha cambiato col, vedi, c'è un po' di differenza dalla 140 alla 430, ma pochissima. Qua c'è 9, 22, 23, là. Però già sono giusti tutti e due. Sì, ma me l'avevi detto che la trovo che era un controllo, forse era 140, mi avevi detto che era 9, 18, 9, 20, non so, magari qualche cosa c'è di differenza. Dalle radio, capito? Uno c'è una ricezione magari più aperta, l'altra certa una più chiusa, e un punto esce, uno o due punti esce, non succede nulla, non si toccano mai, no? Sono tutti uguali, no? E, ho commutato poco fa col digitale, con 9,20 ed è giusto, 9,20 da sul digitale proprio, perché non è a LED digitale, lo smettere, se i 9 più 20 più si accendono, c'hai altre due barrette, quindi 9,25, 9,23. Aspetta che mi scusa il telefono. Ecco, metti in scusa che avevo una telefonata in corso, Vittorio Emanuele. Veglia, va bene. Fate una foto di quello che ho bruciato stamattina. Come ne è rimasto? Un bene è rimasto di quella roba. Ah, ora sono rimaste le unghie e i denti. E come rimangono sempre ai punti? Rimane sempre le unghie e i denti. Hai visto? Poi una dieta ci mangia solo la cotenna, la matta nelle varie. Ti hanno fatto vedere, ti hanno fatto una cortina, guarda, lui, devo guardare, secondo te, sì, ti vedo un po' sgonfio, ma sicuramente perché sei andato in bagno, no, 4 kg di magrito. E non sta facendo, non sto mangiando niente. E poi così non sto mangiando niente. L'altra volta c'è una cannola che sono state le bulle 11. Io vado a andare a fare il caffè, te non mi bevo il caffè alle 11, il caffè lo prendo la mattina alle 8, massimo alle 9, e boh. Io mi ho preso una... mi ho preso io, boh. Ah sì, una birra abbiamo preso, una birra. Allora, la bevi anche tu un bicchiere, così ne prendiamo una grande, no, due piccole. Poi ci ha guardato quella ragazza, ma non c'è niente da mangiare, tuttora vicino. Dai, portiamo un tramezzino. Ah sì, un morso, divorato. Insomma, è arrivato neanche a gola, ne ho porti un altro. Quattro ce ne ha mangiato, una deve dall'altro. Ma com'è che ti ha detto che non mangia anche la sua? Sì, ma tu non, tanto quando vado a casa io ho le coscettine di pollo, l'essere, vai, croca di vai. Ma hai capito perché è partito? Adesso mi torna che hai ingrassato i 10 kg per mangiarmi. Vabbè, perché il ristorante, ma che va, per approfittare. No, ma me l'ha detto, se ci vuole almeno mangio un po' di più, perché qua non mi fanno mangiare, tra Roberto e mia moglie. Allora, sì. Aspetta poi un'altra, fine la dieta con Roberto, va, la signora ne ha tutti e due. Chi è Roberto? La Gattia. Ah, no. Va, lascia perdere. Ha detto, lascia perdere. Tu la dieta devi fare da solo, una volta solo l'ho visto a Walter Marco. Una volta solo, ma ti parlo forse 10 anni fa, che aveva fatto l'Herbalife, aveva dimagrito di 20 kg. Tu stai parlando per 10 anni fa, io stavo parlando, di una ventina anni fa, non 10 anni fa. Già lo so, con la radio addirittura, con la radio in canaletta, no, di più di 10 anni. Più di 10 anni, non mi ricordo. In quel contesto lì l'ho visto veramente in forma, stava benissimo, sai, perché lui è alto, stava benissimo. Poi è tornato a mollare, in giro di un paio di mesi è diventato una botte. Sì, perché è mantenimento poi, perché tu dimagrisci, dopodiché se non continui a recuperare il lupio. Infatti io perché non ne faccio mai, io tengo costante, 82, 84, sono arrivato anche a 89, per carità, però mollo determinate cose che so che mi fanno ingrassare, tipo la birra, tipo il vino, non ne approfitto. soffitto, capito, i salumi, ma piacciono tutti gli sciacquati, queste cose lì, come tutti, li mollo e mi tengo costante, scendo sempre da 83, 84, il peso mio è quello, non me ne fate nulla, però già l'hai visto, non è che va a giocare la batte e vado. Fabrizio, sabato. Mi è stato dal cancello, cos'è? Di nuovo il fusibile o la scheda? No, no, ha controllato, detto che entrambi erano... Era da controllare, il fusibile è buono. Io ho detto che da parte della scheda anch'io. C'è qualcosa che forse assorbe troppo, non so. Non lo so, è da controllare, insomma, ora... un po' in fretta, infatti dovevo aprire anche chiuso perché non ce l'ho le chiavi, però la chiave era dentro la macchina, ma la macchina era chiusa, quindi non siamo scesi, ha portato la stazione soldato quella nuova, adesso vediamo, vediamo sabato, non credo che lo porto sabato, non mi piace, non lo controllo, ma le connessioni, c'avevo il Galaxy, avevo io, il grado di brutto avevo, con il più 5 se non sbaglio. C'è una radio come quella che c'hai tu, non ci bisogna portare la radio, ma se un microfono normale non ce l'hai di quella radio, si fanno uguali a quelle lì le connessioni. Il microfono normale no, non ce l'ho, perché no, non ce l'ho, però posso, credo di avere lo spinotto a 5, però posso portare lo spinotto a 5 e il, come si dice, il microfono. Era la cattiva prova, ci vorrà la radio per provarla. Secondo me non c'è un link in giù, il problema è di sì, se lo porto quello. Ma no, porta il tuo, magari quel link non funziona, non ce l'ho 30 anni tu guardi. Porti il tuo col cappello di alimentazione, te lo attacchi a un alimentatore lì nel banco e te lo fai fare come cristiani. Capito? E ti ripeto, io l'ho attaccato e la funziona, ho messo attaccato un virus, io non ci vedo. Non solo che si attaccava, l'ho messo da parte, però ce l'avevo su Galaxy, la connessione è Galaxy Saturnecco, che è al contrario della LAN 48. Guarda, faccio prima attaccare il Lincoln, porto il microfono sul palmare che c'è tanto, lo spinotto l'avevo comprato, niente, non sto usando perché è un po' stava, come si dice, un po' chiusa nulla qua, e gli metto quello lì. Allora, si può fare tutto, no? Non c'è problema, capito, va bene così, alla grande. Almeno c'hai il microfono per quella lì, ti ripeto, io sabato te ne scendo anche il Salelta se vuoi, no, tanto io non me lo sto nulla, non lo sto usando, è un microfono del Galaxy, e ti metti anche quello, oppure quello è a 4, potrebbe andare dove, boh. Sì, scendilo, pure limite, ma se ti serve di nuovo, lo sai, è qua, non c'è problema, scendilo, lo voglio provare, così poi mi ascolto una roba dall'altra, boh, vediamo. Ia, non problema, va bene, tanto visto che c'è un po' di carne ancora in frizza, quella che ho messo io, capito, lì, così la facciamo fuori, facciamo prendere altre 2-3 kg di salsiccione. No, sto sbagliando, sto provato io, del biodo. È biodo? Dove c'è il brancamento? Che te l'ho messa lì io la carne? Vuoto. Le brancamento già l'ho visto che c'è, è in frigo però. Poi sono il vino che provo tu stesso. No, la frigo è vuoto. Allora l'ha portata a casa la carne. Perché quella carne di cavallo, capito, l'ha portata a casa. Quindi, non so se... Vabbè. Ma non mangia la vita. Infatti non le mangia la carne di cavallo, boh, che te l'ha portata. Allora l'ha portata su, ma l'ha messa nel frigo a poco, non so. Vabbè, già chiediamo a lui quando rientra. Intanto martedì lo deve fare subito. Di preparare per sabato, perché tutta la settimana fa tempo bello, quindi non sei arrivato con gli alberi, solo all'inizio la casetta, quelli in mezzo non li hai tagliati, no? No, mi ha risposto, perché buona mattina, pretendi sì, buona mattina, e sono arrivato dietro la casa, oltre non qua la strada, quindi lo passiamo dall'altra parte, lo vediamo, se ci può entrare. Dall'altra parte ci bisogna togliere le 15, no? Quello è un casino, come fai a sbracciare, ti puoi mettere davanti alla porta della dove c'è il salottino fuori, lì, e provare se ci se fa, ma sotto scala, ragazzi, è un bel pericoloso. No, bravo, non ci arriva proprio il braccio, sembra che non ci arriva. E poi fa proprio un pericolo, adesso vediamo. Vediamo perché non posso fare che c'è il fuoristrada, due o tre alberi ci sono qua a tagliare. Entrare col fuoristrada da dietro? Sì, dove ci va? Sì, dove ci vuole? Ma c'è la casetta. Ma perché da dietro con la scala non si può entrare? Quello non è per il nuovo suo, non è quello che ne penso, magari sì, magari no. Perché era lui, comunque sabato gli era buono, ma già era morto, non è un problema, dice. Sì, sì. Ma perché mi ha spento il motore? Intanto non è buono, ma che frenare. Non te ne fai, non fai toccare, gli accendo io, già. Che fa danno lui, ma ammazza sì. Ce la treniamo noi, già la mettiamo in moto noi, la camion, già. Lui già c'è il Walter. Se si può entrare dall'altra parte fai il giro, se no diciamo il buon piede per gli agisci. No, ma penso che già ci facciamo entrare. Dall'altro cancello, quello di fuori, di fondo. Esci lì, intanto di già è pulito adesso. Sì, quello che è il cancello là, gli ho dato una passata, c'è sugli attori anche io davanti, tutto, dove ha preso fuoco lì. Perché era tutto uno sport da uscire, l'uscita c'è adesso lì, ma in ogni caso si può entrare dall'altra parte. Se le danno il permesso, si entra da lì e si tagliano quelli, capite? Non è un problema. Andare, andare, andare, già la facciamo. Già la facciamo. Antonio, le facciamo preparare il fuoco. Sai qualcuno che vuole fatto di testo? Guarda che devo andare a fuoco. C'è qualcuno che? Che vuole dei cuccioli di pastore fresco? Sì. In questo momento no, non lo so. Mandami le foto, le faccio vedere. Io ho già visto il delinquente, se non avessi avuto a lui il pastore fresco, a me è sempre piaciuto. Un cane molto, molto più, insomma, no, meno coincidice. Il mio vuole molta attenzione, capito? Già lo sai, c'è anche il tumore osso, lui è abituato a stare dentro, quindi invece io il prossimo cane che prendo cuccia fuori e fa il cane fuori, fuori nel senso al coperto, perché non è, lo metto nel corridoio del cavallo, dove non prende acqua, dove non prende freddo, però lui deve stare fuori. Questo su 12 ore, tra 10 ore e 20 2 ore fuori. Sto comandando, c'è anche la mamma, così almeno vede tutte cose. Sì, ho visto, ho sentito il telefono che manda, che sta facendo din don, perché me li guardo. Bene, bene, bene, bene. Andando bene. Ora la patata. Ma sai che vai sul una prova al volo, guarda che bene vuoi consegnare, però mettici una col penale nero, segnati lo dica, così non lo vedi. Sapevo, ti sei innamorato di cagnolino. Vabbè. Che belli, cazzo. Belli siamo, miti. La mamma è vecchiotta, no? La madre ha, mi sembra che ha 8 o 9 anni. Sì. Ma sto ho fatto una prova, non tocco niente, poi dobbiamo andare sul canale 38, guardate bene questo, questo segnale, ma metti gli occhiali però, e poi segna col fanarello lo smitter, metti un puntino bianco. Perché dici c'è variazione da qua al canale 38, normale. A vedere quanto c'è di variazione, prova a vedere com'è. Ce l'hai? Sì. Vai, 385. Eccoci qua, 1, 2, 3, bim bum bam. Già buio, aspetta che vado a accendere le luci fuori, sì. Un secondo, che è già buio. Ma, qua c'hai l'ora... l'ora contata e tu, ancora c'è giorno. No, ma perché poi devo chiudere gli sportelloni, capito? Ne approfitto adesso che c'è ancora appena le luci, mi chiudo gli sportelloni dalla parte del, del carveglio e accendo le luci del giardino, che quelle rimangono tutta notte accese. Tanto sono a padine a LED, non me ne affrutti nulla, però volta a caro buccio. Aspetta, arrivo subito un secondo. Dai, vai, sono qua. E allora per indietro. Ecco qua. Perché non c'ho. Non ho messo il. Come si dice? Che si accende. Che si chiama? Il sensore, quello quando inizia a fare buio si accende da solo. Ma lo va sempre a mettere l'elettricista e non l'ho mai messo. E quindi le accendo manualmente, capito? No, se io così ho quella dell'entrata e poi quella per la casa mia, per il mio padre, c'è una lampadina, una falce, un lampione che si accendono così. Io non ricordo come si chiama, viale, non ricordo, c'è un nome strano. Quindi le accendo a mano, poi la mattina, quando esce l'aria, verso le 6:30 le spengo, capito? No, e ci sono le macchine, meglio tenere illuminato. Non fatti nulla, tanto sono lampadine grosse, sono LED, però illuminano tutto. Si vede anche dalla, dalla strada, tutto bello illuminato. E il crepuscolare stai dicendo tu? Esatto, esatto. Sì, sì, anche questo qua è così. Si accendono il crepuscolare e poi si spengono la mattina. Poi bisogna vedere, perché ho visto ieri notte, mi sono svegliato, forse erano le 5. Stavo andando a cadere un po' la luce, diciamo, stava mollando, non era più brillante come era notte. Io me quello è il buio aperto ancora, perché il buio è sì, io vado dopo gli sportelloni e si alza l'aria, è buio, e le luci sono ancora accese fuori, le lascio accese sino a quando se ne va lì, capite, non si vede nulla, non si vede niente, poi quando va via lei le spengo e metto da la cucca. Sì, sono comode, poi c'è un bel anche quelle quando, quando passi si accendono. Sono quelle collettore. Sì, quello li voglio mettere nel cancello, proprio fuori dalla strada. Devo mettere un paletto che ce l'ho e metterla in modo che quando l'aria va a prendere la macchina, perché a volte non vedi la serratura. Ehi, io mi sono indicato di controllare quel palo, se c'era l'altro, me l'ho detto io. Sì, sabato che ci va, controlliamo se c'è, me lo metto nel fuoristrada, non salgo così, sono molto contento che mi attende a tirare sull'antenna, già la tiro su, c'è anche il cavo pronto da sostituire, perché così non è giusto, sono 17 metri, adesso tiro su e ne metterò 20, 22, sono 23 metri, e va bene, non probe, e la fermo blu liscio. Andare. Che ne so? Io c'ho 19, 7:10 sono, 7, quasi un quarto. Avevo detto che i cinghiali mi hanno buttato giù i paletti che mantengono i bracci di fuoco. Vabbè, allora quando andiamo a mangiare così mettiamo un laccio. Poi in giro i paletti, ho messo le pietre, hanno fatto un mulettino di pietre, no? Per essere più resistente anche se c'è il picchetto. E invece che scelgo così niente candy, scavando nelle pietre nelle lampadole di Bari, tutte e due. E facevo la radio la mattina, boh, mutta, schiaccio la portante, cazzo, 5 stazionali, ma la radio si è fatta lo fumo. Esco fuori, cazzo, non c'erano più di fuori, tutte e due braccia a terra. Anche dove siamo andati noi, Alghero. Una campagna, faccio una recensione proprio per non entrare ai cinghiali, no? Quindi con tanto di giri e quant'altro. Dall'altra parte è tutto lavorato, tutto lavorato. Stiamo cercando da mangiare, no? E cazzo già ne diamo da mangiare, sì. Tra io e il mio vicino. C'è la verdura che le buttiamo. Ma stamattina io ho rasato tutto il prato, l'ho messo dentro un sacco e poi gliela butto un po' dopo il cancello. Domani mattina non c'è più l'erba fresca, no? Tagliata così. A casa di Giubusso c'è una grande di rucola, infatti ne ho fatto un pochino e ho fatto l'insalata, tutto il resto l'ho buttata, l'indomani non veniva manco un pezzo. Metti che gran trucco così in grasso. E allora, ci serve una pila di l'aria marina. Ora si un quarto, no, si è mezza. Allora metteremo tutta la macchina a farla scaldare. Dietro dove era? In piedi giù. Ehi, papà, c'è chiave, corri. Stiamo a gridare, cazzo, per svegliare tutti qua. Come ci è messo a gridare, boom, è partito. Lui a me era venuto vicino. No, mi ha trovato impreparato, c'è carico a nome per 21 e volte un buco in capo, io ve lo dico, ma vuoi pulito subito, quindi? Sì, ti chiamo subito al volo, 5 minuti se ci vuole a venire da te. Parlo di sabato, di domenica. Sì, ma era proprio a 5 metri dal cancello, ammazza che te ne varia. Deve essere anche grossa, ma le vette, perché ci sono anche i cuccioli, io è vero quando scavano le zampe, ci sono zampate grosse, muso grosso, cercando radici, poi sono i buchi piccolini, quelli sono i piccolini che sono appresso a lei, cazzo. Vabbè, vogliono tentarti. Sì, e ne ho granotti, verso le 10:30, 11:00. E ti accendo la luce del giardino, la luce accesa del giardino, e tu senti già il movimento delle scippe, no? Capito? E fai cu, e dopo la macchina. Vabbè, ma sicuramente il Gran Turco si abitano a venire. Non c'è perché salgono vicino, perché il mio vicino le buttava il pane duro. Ma il pane duro è... Così, cioè, lo chiamano a tirare mai, quando mettono il pane duro, perché non è solo il cinghiale che ce lo mangia, lo mangia la volpe, vabbè, anche il cane. Adesso metti solo il Gran Turco, lo mangia solo lui. E poi il ghiotto. Oppure c'è di quella pera selvatica, quella malamata, quella piccolina. Oh, e di quella ce n'è un bel qua. Allora c'è quella. Allora lì loro mangiano, cercano quella. Un bel ce n'è, un bel. Infatti a me è una ricca che mi varia, come si chiama? No, il bietto è l'altra, quella amara, l'indifia. Cazzo, invece noi la ghiscia. Però, sinceramente, io avrei tentato da voi. Un giovedì ci vuole. Un giovedì ci vuole, se no aspetto a capodanno. Sì. Ma perché vicini, molto vicini hai tu? No, quattro siamo. Questa bifamiliare giù e l'altra bifamiliare su. Tutto privato, la casa è privata, cazzo, non entra nessuno. Però chi c'è il cacciatore? Sergio cacciatore, lo dico a Sergio, mi vado così. E allora? Sergio a Ginevra fanno, lui c'ha due pastori male in mani, un maschio e una femmina, sono bellissimi, poi sono proprio bravi, non fanno vicinanza al cancello, io a volte l'estate ci vado a bere una birra, anzi, molti vedi mi conosci da lontano, però cacciro che so, ci buttano sopra, ci buttano, ti leccano, ti fanno, cazzo, sono grandi, enormi, ma giù mai cazzo mi cuore a terra. Quelli tu li devi sentire la notte, non si possono tenere, come arrivano i cinghiali vicino a lui, e i cacchellini lampano il gancetto. Per forza, perché mi prendono il territorio. Belli, eh? Uno è beige e l'altro è bianco, ma infatti quello beige è aiuto, questo non è un pastore male in mano, cioè, no, non è un pastore male in mano, li ho presi da cuccioli e perché lui c'è molto prima di me, ecco, adesso l'ho presi da cuccioli, a me mi sembrava una, un pastore del Caucaso, che è se buco e buco manduro. Bello, ma ascolta, mi devo assentare un pochino, anche così mi dice la roba da lavoro per domani, e poi magari rientro. Sì, vabbè, me la preparo anch'io la roba per domani mattina, così. Ah, vabbè, a dopo allora. Io positivo, capo di Rogero, sono qua, a dopo, ciao. Ciao. Peppino a trippa.